Faccio un esempio molto semplice. Poniamo che questi soggetti siano quelli in situazione di bisogno psicofisico, dal punto di vista della quantità dei legami di sostegno non ci sono differenze. Entrambi hanno due legami di sostegno, due persone che possono fornire sostegno in caso di bisogno. Ha scoperto che quelli che avevano una rete fatta in questo modo, cioè costituita da due soggetti quali a loro volta pure si sostenevano, superavano con maggiore facilità la situazione di bisogno. Che cosa significa questo? Questo significa che c'è un livello di realtà sociale che non ha a che fare con le caratteristiche degli individui, sesso, l'età, la professione, eccetera, e con le caratteristiche di ciò che circola all'interno dei legami di sostegno, ma un livello propriamente strutturale, morfologico, che è capace di per sé di determinare alcune caratteristiche individuali dei soggetti che si trovano al loro interno. Ok? Vedremo un saggio nel corso delle lezioni in cui si presenta una ricerca condotta dopo l'uragano Andrew. Ne avete sentito parlare? Dopo questa indagine è stata svolta una ricerca su un campione rappresentativo della popolazione colpita per capire quali erano le condizioni relazionali dei soggetti che avevano superato meglio e ottenevano più sostegno nella situazione di bisogno nella quale erano. Questa indagine di carattere campionario ha scoperto che, e ha dato un'ulteriore prova, che i contesti che sono più coesi, adesso lasciamo il concetto di coesione sociale così da definire, ma alla fine sapremo misurare la coesione sociale, i contesti sociali più coesi, cioè più densi, nella quale c'è un aiuto più generalizzato, anche a parità di caratteristiche individuali, risultavano più efficaci. Questa è un'indicazione operativa per chi opera in situazione di bisogno, di necessità. Come si fa a dire però se la relazione, questo è quello che impariamo a fare adesso. Il corso serve a imparare questo, serve a imparare a apprendere. Perché occorre dire che non in tutti i casi, questo tipo di situazione rispetto a questo è utile per raggiungere una finalità. Dalla letteratura che ho analizzato, sostanzialmente questo vale per le situazioni in caso di grande emergenza. Quindi l'indicazione operativa per noi sarà cercare non solo di trovare quelle reti, ma anche di favorire quel tipo di reti. Perché sappiamo che la letteratura ci dimostra che queste reti tendenzialmente aiutano in maniera più efficace a superare una situazione di bisogno. Se noi per esempio guardiamo il nesso tra la forma della rete e il rendimento scolastico, a me è capitato di svolgere queste indagini sia a livello di scuola superiore che di scuola primaria, scopriamo che è la capacità di mediare tra aree diverse della rete che incide positivamente sul rendimento scolastico. Okay. Quello che però bisogna sottolineare è che c'è questo aspetto, questa caratteristica delle reti che in parte prescinde dagli individui e dal modo in cui questi interagiscono a livello di animo, cioè due alla volta tra di loro, che incide sulla performance. Posso fare un altro esempio perché noi oggi vedremo proprio questo nella lezione di oggi. Siamo abituati a guardare la società. La dico subito grossa, è una frase paradossale. Siamo abituati a guardare la società a prescindere dalla società. Quando noi leggiamo le risultati delle indagini statistiche, che cosa scopriamo? Scopriamo che i soggetti che hanno una certa età tendenzialmente si comportano in una certa maniera, che i soggetti che hanno un certo titolo di studio votano tendenzialmente un partito invece che un altro, hanno una certa idea di fiducia sociale, eccetera. Che cosa incrociamo tra di loro? Incrociamo le caratteristiche degli individui. Guardiamo in che modo delle caratteristiche che sono astratte per gli individui e che noi ci proviamo a misurare variano in maniera concomitante. Okay? Sappiamo se una donna più probabilmente rispetto ad un uomo seguirà un certo programma televisivo. Che cosa incrociamo? Il sesso, che è una caratteristica delle persone, con la scelta di guardare un programma invece che un altro. Cioè incrociamo delle caratteristiche degli individui. E queste indagini sono tanto migliori dal punto di vista statistico, quantomeno è probabile che le persone che noi intervistiamo si conoscano tra di loro. Ora, c'è qualcosa di strano in tutto questo o no? Come si può fare scienza della società a prescindere dalle relazioni sociali? Posso farti un esempio molto semplice di come siamo abituati poi a ragionare tutti in questa maniera. Se io vi dovessi fare questa domanda, vostro figlio va a scuola e cambia nel giro di un anno 7 insegnanti di matematica. Come reagireste voi? Con preoccupazione, in maniera neutrale o con gioia ad una notizia di questo tipo? Con preoccupazione. Con preoccupazione, siete d'accordo? Oh, sì. Bene. Perché? Che cosa ci preoccupa? Beh, in primo luogo il fatto che a livello magari di didattica sia stata data una certa discontinuità. Ecco, quindi ci interessa il fatto che la qualità formativa possa in qualche modo essere influenzata da questo cambiamento. È corretto, io sono d'accordo, anch'io come genitore mi preoccuperei per una situazione del genere. In un'indagine che ho svolto nella provincia di Trento, coordinata da Ivo Colozzi dell'Università di Bologna qualche anno fa, su un campione rappresentativo di studenti di quarta superiore, abbiamo scoperto che se c'è un turnover, il rendimento medio della classe scolastica tende a scendere, a diminuire. Quindi ci sono anche delle evidenze, oltre a queste, delle evidenze empiriche che dicono che il turnover dei docenti incide negativamente sul rendimento scolastico. D'accordo, ho trovato questa ricerca pubblicata nel volume Scuola e Capitale Sociale, edito da Edison 2012, se vi interessa approfondire. Ora però noi come sociologi ci dobbiamo porre una domanda, perché qual è il meccanismo che collega la discontinuità formativa al rendimento scolastico? Perché non è sufficiente dire che due cose variano in maniera concomitante per dire che c'è una relazione tra loro. Lei si occupa di assistenza, no? In situazioni di necessità. Io potrei dirle, bene, noi potremmo trovare una relazione statistica tra la quantità di vigili del fuoco che intervengono per spegnere gli incendi e la quantità di danni provocati dagli incendi. Io sono sicuro che questa relazione statistica c'è. Il fatto che ci sia una relazione statistica, cioè se noi potessimo mettere sulle righe 100 incendi e registrare due variabili, la prima quantità di danni provocata dall'incendio in milioni di euro, la seconda quantità di vigili del fuoco intervenuti per sedare l'incendio, vedremo che se cresce la quantità di vigili del fuoco cresce pure la quantità di danni. Ecco, chi di voi di fronte a questa relazione statistica direbbe: caspita, sono i vigili del fuoco che provocano i danni nel corso degli incendi? Chi lo direbbe? Giustamente sorridete, nessuno. Il fatto che ci sia una relazione statistica, cioè che due cose variano in maniera concomitante, non vuol dire che ci sia un legame tra loro. Questo è un tipico esempio di relazione fallace, apparente. C'è una terza variabile, che è la dimensione dell'incendio, che spiega sia la quantità di danni fatta dall'incendio, sia la quantità di vigili del fuoco che interviene per sedare. Allora, noi troviamo una relazione statistica tra il turnover degli insegnanti e il rendimento scolastico. È sufficiente? Ci accontentiamo di dire che c'è? Dobbiamo capire perché. Allora io vi chiedo perché, che cosa succede? La risposta che genere ascolto quando pongo questa domanda è: la discontinuità formativa, educativa, vuol dire mutamento di linguaggio, eccetera, e richiede di un periodo di tempo e di impegno perché nasca un legame tra il docente e lo studente, cioè perché lo studente riesca a capire bene le spiegazioni e anche quali sono le volontà poi del docente in sede di esame e di analisi, d'accordo? E sostanzialmente questo è vero, in genere ci si ferma a questo, cioè noi guardiamo una classe scolastica come se fosse, qui non c'è modo di alzare un po', come se fosse un posto in cui questo è il docente, ha una relazione con tutti gli studenti. Cioè immaginiamo la classe scolastica come se fosse un deposito di box con dei cavalli dentro. Avete presente come sono fatti i box? Sono i cavalli tutti separati tra di loro. La classe scolastica è una cosa del genere. Funziona così. È un luogo all'interno del quale gli studenti hanno una relazione dialoga con il docente. O invece un posto in cui questi interagiscono in qualche modo tra di loro. Nella stessa indagine che vi ho citato trovate che se cresce oltre un certo livello la quantità di scambi e di sostegno all'interno della classe, cioè la classe accresce il livello di densità delle interazioni, il livello medio del rendimento scende, non solo in termini di voto, ma anche di condotta. Ok? Quindi, dobbiamo capire se quando cambia il docente la classe reagisce come gruppo, come struttura sociale. Quando cambia docente, la classe reagisce all'aumento della contingenza, cioè delle preoccupazioni dovute alla nuova figura, eccetera, rinsaldando, rafforzando i legami tra i pari. Cioè, fa crescere il suo livello di densità, che incide negativamente sul suo rendimento e sul voto di condotta. Allora abbiamo trovato una spiegazione, non solo individuale. Senza dubbio vale il discorso della discontinuità formativa, d'accordo? Ma se noi mettiamo in competizione queste variabili, scopriamo che la seconda, cioè la variabile collegata alla reazione strutturale della classe come gruppo, non come somma di singoli individui, perché questo è il discorso. I legami sociali che ci sono tra gli individui non sono casuali, non sono degli abbinamenti fatti dentro una scatola e poi avete presente che quando si lanciano i dadi si dispongono in qualsiasi maniera, non cambia nulla. No, il fatto che si produca una struttura invece che un'altra incide, ha un'incidenza autonoma su quello che i soggetti possono o non possono fare, riescono o non riescono a fare, potrei dire di più, vogliono o non vogliono fare. In questo modo noi scopriamo che c'è una dimensione che non è individuale, che non è risolvibile a livello individuale, propriamente sociale, che incide sul rendimento. Allora, lo sforzo che ho fatto io, che vengo da indagini in ambito educativo, sulle reti di sostegno, eccetera, è stato di pigliare queste competenze e di imparare a prendere, guardare la letteratura che riguarda questo tipo di indagini in situazioni di gravissima emergenza. E identificare lì le evidenze empiriche, perché bisogna che una persona che interviene in quelle condizioni non solo sappia che cosa chiedere, come chiederlo e come tirare fuori qualche informazione concreta, perché poi chi vi coordina, chi vi dirige vuole sapere cose più precise. Se vi dicono voglio sapere che livello di coesione sociale lì, non è che uno va lì, guarda, dice ma secondo me è media, ah bene, media, poi si agisce in conseguenza e quello solo per caso può avere a che fare con un risultato positivo, d'accordo? Ma deve anche sapere quali sono i trend, gli andamenti registrati in letteratura rispetto a queste caratteristiche. Allora, bisogna imparare, secondo obiettivo, le competenze teoriche, tecniche per fare l'analisi delle reti, si chiama social network analysis, e io ritengo che questa, alla fine di un corso così intensivo, il fatto che poi siete pochi mi consente anche di fare degli esempi in maniera un po' più precisa, affinata rispetto alle vostre necessità, se ci riesco naturalmente, costituisce una competenza che di per sé è una porzione del curriculum di un individuo. Cioè sapere utilizzare una tecnica di ricerca che consente di studiare i gruppi, le interazioni tra i gruppi e gli effetti che queste interazioni producono sull'azione dell'individuo. Questa è una competenza, al di là che sia che si possegga un titolo di studio oppure no, eccetera. Il mio sforzo sarà, quando arriveremo alla parte tecnica, anche di provare a utilizzare dei software assieme, per vedere come funzionano, per provare anche a fare degli esempi, perché tu devi venire fuori, questa è una magistrale, sapendo fare delle cose, secondo me. Oltre che a saperle, bisogna anche saperle usare. Ecco, allora, mentre preparavo questo esame, questo programma d'esame, quindi potete immaginare la mia gioia quando ho visto il trionfo di pubblico durante le prime giornate, ho visto che c'è un'applicazione metodologica specifica nelle situazioni di grave necessità, di emergenza, e noi allora ce la andiamo a provare. A quel punto però sappiamo di che cosa si tratta, sappiamo che cos'è la social network analysis e sappiamo anche capire in che modo molto semplicemente è stata finora utilizzata in questo ambito. E infine dobbiamo guardare delle ricerche, che a questo punto saremo anche in grado di leggere, su questi temi. Non tutte le emergenze sono uguali. Io ho messo una parte relativa alle emergenze di carattere, diciamo, collegate a catastrofi naturali, l'uragano Andrew e l'uragano Katrina, e delle, non la storia dell'uragano, ma le ricerche sociologiche fatte dopo l'uragano sugli effetti prodotti dall'uragano sulle reti, e poi la rete di organizzazione degli enti governativi privati non profit e il network studiato secondo questo tipo di approccio tra le organizzazioni dopo gli attentati dell'11 settembre del 2001 negli Stati Uniti d'America, come ha reagito a livello strutturale la rete delle organizzazioni. Perché questo è importante? Perché alcune delle persone che usciranno da questo percorso formativo andranno a organizzare le reti di supporto, di sostegno in ambito più operativo, quindi devono avere a che fare con soggetti individuali, con persone, no? Le tecniche poi non mutano, però chiaramente mutano altre variabili che si devono utilizzare. Altri invece dovranno coordinare le unità operative, mettere in rete i gruppi operativi. Mettere in rete i gruppi operativi è uno di quegli slogan, no? In realtà non vuol dire niente, bisogna sapere che tipo di rete produrre con i gruppi operativi, quali sono più efficaci rispetto allo scopo, alla necessità che si vuole raggiungere, perché una rete non vale, è meglio costruire una rete in cui tutti collaborano reciprocamente, questo potrebbe essere utile. In genere queste reti producono a livello individuale delle controculture, sono difficili da governare e soprattutto richiedono un enorme investimento di tempo. Questo è compatibile col tempo disponibile? È meglio avere un coordinamento, è meglio averne due? Quali sono gli effetti strutturali che il coordinamento produce? Ok? Perché bisogna essere raffinati in questo tipo di cose, non si possono lasciare le cose né a caso né all'intuito, diciamo così. E quindi nel programma poi delle cose che dovrete studiare, vi faccio vedere un po' i libri. Trovate, il primo è questo, abbiamo quasi finito, lo finiremo domani, ed è un testo di carattere teorico, cioè che cosa vuol dire studiare le reti dal punto di vista concettuale, d'accordo? Non mi fate impressionare dalla quantità di roba, in realtà sono, non sono cose lunghe, d'accordo, dal punto di vista della quantità di pagine. Poi abbiamo un manuale di metodologia di ricerca, lì ci staremo abbastanza su quel testo lì, perché vorrei davvero che voi foste in grado di fare una ricerca anche piccola dall'inizio alla fine. Dall'impostazione teorica alla raccolta dei dati, la costruzione degli strumenti, la raccolta dei dati, la loro sistematizzazione e poi il convento, l'analisi dei dati e delle misure. Questo è del testo di Chiesi, l'analisi dei reticoli. I primi due capitoletti di questo testo, sociologia relazionale e social network analysis, ci consentono di fare la differenza tra personal network e full network analysis, poi capiremo che cos'è, perché sono questi due tipi di contesti che potete trovarvi di fronte quando poi vi trovate dal punto di vista metodologico a dover fare la ricerca. E qui abbiamo tre saggi che potete tutti scaricare. Questo si scarica dal freeware dal sito della rivista, basta mettere il nome, lo trovate già in PDF. Questi due anche, se li connettete da computer con le vostre credenziali. Se volete ve li sposto io. Lui li ha già scaricati. Gli stampati sono saggi di 12 pagine, 13 pagine, molto molto molto snelli, però sono formativi, intanto perché per i contenuti, questo è l'applicazione in ambito, vedete, dopo post nella ricerca del post Katrina, dopo il uragano Katrina, e qui vedete praticamente la trasformazione in ambito, diciamo di emergenza di quello che vi faccio vedere nel testo precedente, personal e full network analysis. Questi l'hanno preso, hanno utilizzato questi due approcci che esistono, no? Io soltanto li spiego nel mio testo, esistono in letteratura, però dicono bene, allora se dobbiamo usarli in situazioni di emergenza bisogna presentarli in questa maniera. Qui trovate un esempio di personal network analysis, che è la ricerca fatta dopo l'uragano Andrew, e questo saggio qui, e un esempio di full network analysis, che è l'indagine sul coordinamento tra le organizzazioni nella risposta agli attentati terroristici dell'11 settembre. Quindi c'è un contenuto sostanziale, e poi è anche importante che uno che fa questo mestiere sia capace di leggere il saggio scientifico, cioè di vedere che cosa è uscito su un certo tema, di capire che cos'è la parte teorica, quella metodologica, e leggere i risultati, perché mi pare, a differenza di altri contesti, tutti i contesti hanno un ambito, io per esempio insegno sociologia anche a, ai laureati in scienze dell'educazione, tutti educatori, e ho, come dire, ricordo sempre, no, l'importanza, la, come dire, la, oltre che l'importanza, l'enorme responsabilità del ruolo che hanno, la necessità di gestire bene i contesti relazionali collegati a questa importanza. In questo corso mi pare molto rilevante questo aspetto, cioè l'aspetto proprio della responsabilità collegata alle, alle mansioni che potranno essere affidate a voi in maniera magari ancora più frequente di quanto già non sia, proprio perché formati specificamente rispetto, rispetto a questo tema. Allora, ecco, adesso chiaramente no, l'esame è una prova orale, vediamo un po', parliamo un po' del, del programma, degli aspetti che ci interessano. Quello che non posso fare evidentemente è ripercorrere tutto quello che abbiamo visto finora, però il tema che trattiamo oggi, salve, buongiorno, buongiorno. Il tema che trattiamo oggi è collegato proprio al concetto di struttura sociale. Allora, noi dobbiamo capire che cos'è. Ben trovato, io adesso ho fatto un, come dire, un po' un resoconto della, dell'impostazione generale, purtroppo non posso, non posso riprendere, provo in corso d'opera ogni tanto a fare qualche richiamo rapido. Allora, sostanzialmente noi dobbiamo capire dal punto di vista teorico, siamo nella parte teorica del corso, il volume del quale parlo è La rete, metafora dell'appartenenza, e nelle slide che io riporto indico anche, è comunque indicato nel programma d'esame online, d'accordo? E trovate indicate nelle slide il numero delle pagine alle quali mi sto riferendo, che sto citando nella slide che riporto, quindi se voi vi annotate anche il numero della pagina poi ritrovate immediatamente nel testo quello che sto dicendo. Una domanda, le slide poi le metterà anche in rete? Ma dunque, proprio perché metto il richiamo alle pagine, io tenderei a non metterle in rete le slide, anche perché possono, come dire, si può generare il dubbio che sostituiscano lo studio dei testi. Quindi io non darei le slide, però ripeto, sono disponibile per qualsiasi necessità nello studio, nella comprensione, a rispondere anche via email, telefonicamente, a ogni... per prendere nota più puntuale, no, rispetto magari quello, poi se c'è un tema che affronto e magari si preferisce ascoltare quello che dico, scrivere qualcosa, dico, piuttosto che riportare il testo che è scritto nella slide, basta segnare il numero della pagina, prendere qualche appunto e poi a casa ritrovate la pagina immediatamente sul testo, d'accordo? Allora, dobbiamo capire perché da un punto di vista teorico è importante, quindi mi perdonerete per la astrazione di questa parte, ma vi ripeto, domani chiudiamo la presentazione degli aspetti teorici del corso per passare a quelli più pratici e metodologici, perché studiare e definire la struttura sociale è importante per la conoscenza delle azioni, degli orientamenti, eccetera, degli attitudini, degli individui. Quindi dobbiamo capire l'obiettivo che si pone Paola Di Nicola, che ha scritto questo testo, è quello di capire in che modo è stata da alcuni definita la struttura sociale in letteratura. Noi adesso dobbiamo ripercorrere un po' queste definizioni per farci un'idea anche noi di questo concetto, perché lo scopo che poi abbiamo è quello di imparare, ripeto, a descrivere le caratteristiche delle strutture sociali. Vediamo la rilevanza del concetto di struttura. E vedete pagina 66, ok? Il concetto di struttura è fondamentale nella network analysis. Perché? Perché afferma la possibilità di studiare separatamente le diverse forme delle relazioni in quanto tali. E quando parliamo di forme delle relazioni, vi riporto ad esempio riferibile in qualche modo a Paducci, che abbiamo visto poco fa. Parliamo proprio di configurazioni morfologiche diverse. le quali producono, come dicevo, un effetto sulle azioni degli individui, ma non sono necessariamente note agli individui. Una delle relazioni che trovo come meno una delle relazioni non reciprocate che trovo nelle ricerche che svolgo con i colleghi qua dell'Università di Verona è la relazione amicale. Ok? Tizio considera Caio amico e Caio invece non fa lo stesso con Tizio. Ora, anche l'uomo, diciamo così, attento ma non studioso di cose sociali, si chiederebbe, ma io potrei considerare amico chi non mi considera amico? Lei considererebbe amico una persona, continuerebbe a considerare amico una persona che invece non la considera un amico? Secondo me, dopo no. Dopo no? Cioè, dopo se, no. Se lo sapesse. Io per dire che Giovanna è mia amica, però magari Giovanna magari dice che io sono un suo conoscente, quando vengo a sapere che lei dice che è conoscente anche per me. E crea qualche problema, no? E crea una situazione un po' strana. Un po' strana, no? Giovanna è lei? Sì, sì. Perché ci conosciamo da vecchia data. Ci conosciamo da data, per terremoto. Mentre diceva amica, Antonio che si è portato un po' di spazio, lo volevo dire, ecco. Che vengo da lavoro. La comunicazione non verbale. Sì, nei rapporti sociali questo è fatto di reciprocità, cioè nel senso, per me l'amicizia ha una struttura di valori che magari per lei non è così. No, d'accordo. Però diciamo che l'effetto che produce sulla sua azione un legame che lei considera amicale, non li produce per il fatto che lei lo considera amicale, li produce per il fatto che è realmente un legame amicale, cioè reciprocato anche dall'altra persona. Allora, quello che io mi chiedo quando vedo questi dati è, ma se gli individui non sono consapevoli perfettamente, proprio a partire dal fatto che lei non considererebbe più tanto amica la sua collega, se dovesse sapere che lei non è considerato amico, ecco, quello che io mi chiedo è, ma se noi siamo così scarsamente attendibili circa i legami diretti che abbiamo, come possiamo immaginare di essere anche lontanamente, minimamente competenti circa i legami indiretti che non abbiamo? E vi faccio un altro esempio molto semplice, molto banale su questo, no, sempre partendo da qua. Allora abbiamo un soggetto che ha due legami, sempre questo che hanno il disco, ok? E che si trova qua? È un altro soggetto, quale apparentemente due legami, e che, anche a sua risaputa, di fatto si trova in una rete di questo tipo. Ora, questi hanno entrambi due legami, se noi gli chiediamo quanti amici hai, entrambi rispondono due, d'accordo? Su Facebook potrei averne 3.000, lasciamo perdere Facebook perché gli si complica un po'. Allora, entrambi hanno due legami, va bene? Chi di voi si sentirebbe di dire che per il fatto di avere entrambi due legami, magari di sostegno, di aiuto, sono nella stessa situazione strutturale? Sto parlando di questi due, perdonate la rozzezza e nei miei disegni, sono uguali. Sono due grandi. Quindi, secondo lei sono. Se noi guardassimo, faccio una parentesi, se guardassimo dal profilo di elementi chimici, hanno due legami, quindi sono due persone che sono legate a due e due. Sì, ecco, però complessificando un po' il tema, perché il discorso chimico, vogliamo che lei abbia un blocchetto con dei voucher da distribuire per l'utilizzo di una mensa, ok? Gliel'ha appena dato il suo diretto superiore come organizzazione di un campo, la mensa apre i battenti fra un'ora, ok? Lei sa gli unici soggetti che deve, e lei ha il tempo solo per parlare con una persona, ok? E il suo scopo è, faccio un esempio, il suo scopo è quello che, diciamo, questi voucher si distribuiscono il più rapidamente possibile, ok? Ecco, secondo lei, che quindi può fare una distribuzione one shot, cioè li può dare soltanto una volta, un colpo solo. È più semplice questa situazione per la distribuzione veloce dei voucher o questa? La seconda, certo? Perché il secondo, pur avendo la stessa quantità di legami, a differenza del primo, è un... Lei se lo dovrebbe ricordare, perché una cosa del genere l'abbiamo detta, Non mi ricordo, sono... È un broker! Forse non c'era. Questo è un broker, cioè è un mediatore. Ok? Faccio un altro esempio. Vuole difendere da un'infezione, da una gravissima malattia infettiva che si trasmette per contatto, una popolazione di soggetti indigeni che abita tendenzialmente isolata, se non con qualche eccezione per il passaggio di beni, eccetera, in un qualche pezzo di giungla disperso nel mondo, e ha soltanto un vaccino da poter somministrare. E questi hanno questa rete. A chi conviene somministrare il vaccino? A questo qui. Perché se uno di questi dovesse in qualche modo contagiarsi, l'infezione non potrebbe mai raggiungere gli altri soggetti, e viceversa. Ok? Allora, noi dobbiamo capire in che modo questa situazione, quando prima dicevo che il broker è quello che va anche meglio a scuola in alcune materie, parlavo di questa situazione, non la quantità di legami, ma come la rete si configura complessivamente attorno all'individuo. Naturalmente l'individuo non lo sa, può anche non saperlo, ma il fatto che sia fatta in una certa maniera determina quello che può o non può fare, e la velocità, il tempo, le risorse umane. Voi pensate che una situazione del genere richiede uno sforzo relazionale simile a questo soggetto, perché tenere in piedi il legame significa investire energie, risorse, tempo per tenerlo in piedi, ma questo è l'unico punto di passaggio di qualsiasi informazione, risorse, eccetera, che circoli da questa parte della rete a questa e viceversa. Quindi il fondamentale è individuare, ecco, tenga presente che per quello che poi vedremo nelle evidenze empiriche collegate alla ricerca del dottor Guadagno Andrew, una situazione di questo tipo andrebbe in realtà rafforzata per la prima risposta, ok? Andrebbe rafforzata, quindi bisognerebbe usare il broker per favorire la nascita di legami tra gli altri. Bisogna individuarlo e tra virgolette usarlo. Se faccio un esempio pratico, è quello che noi facciamo quando abbiamo dei cambi di protezione civile, dove individuiamo tre persone caratteristiche di quella comunità che sa già disagio perché ha subito una catastrofe, una cosa del genere, e quelle due o tre persone noi siamo esterni, però loro sono le persone più di riferimento. Come li individuate? Come perché magari hanno delle caratteristiche di leader, hanno delle caratteristiche particolari, sono riconosciuti dalla comunità magari. Tenga presente che in genere un gruppo sociale produce due figure di leadership, un leader strumentale e un leader espressivo. Il leader espressivo, che è quello che probabilmente voi trovate più facilmente, sì, è il leader che attira la maggior parte di valutazioni positive, di sentimenti positivi da parte degli altri. Anche nelle classi scolastiche c'è un leader espressivo, d'accordo? Tendenzialmente queste due figure non coincidono mai sulla stessa persona, ok? Però il leader espressivo è importante perché produce benessere in sé. Il legame con il leader espressivo è di per sé una risorsa per tutti gli altri membri della rete. Però il leader strumentale, che non è in genere il leader espressivo, è quello che serve a raggiungere gli scopi, gli obiettivi, le finalità. Infatti, fare l'esempio, il leader strumentale potrebbe essere, cioè il leader espressivo potrebbe essere appunto una persona che è conosciuto, tipo, non so, una persona che è dinamica nell'ambito di una comunità, faccio un esempio. Noi avevamo individuato il carabiniere, oppure abbiamo individuato questo, mentre il leader strumentale era per dire la maestra. Sì, la maestra. Ora vedete, però le dico una cosa, no? Voi l'avete identificato in base alla vostra percezione. Sì, cioè a quello che avete visto. Torniamo a quello che dicevo prima, no? Noi siamo purtroppo a volte anche scarsamente attendibili rispetto ai nostri legami diretti. Ora, sicuramente ci sono persone che hanno una particolare capacità nella lettura dei legami, no? E di identificarli, individuarli, ma quando questi sono stratificati nel tempo, dispersi nello spazio e difficilmente osservabili come contesto, occorrono degli strumenti standardizzati, sebbene un minimo ma standardizzati, che consentano in poco tempo di avere una misura che in qualche modo certifichi della centralità o della marginalità di un certo soggetto all'interno di una rete, soprattutto se si pensa che questo soggetto possa essere utile all'intervento, perché qui si, cioè, voglio dire, qui si tratta non solo di discorso, non si tratta soltanto di capire come è fatto in un contesto sociale, più ancora che gli educatori, prima citavo il caso degli educatori, qui si tratta anche di intervenire, cioè le relazioni sociali, lei prima mi ha detto, era difficile metterli nelle tende, perché si cercavano, eccetera, è difficile capire in che modo si possono organizzare nei condomini, tutto questo approccio, no? Se ci fermiamo all'evidenziazione di un problema, guardiamo le relazioni sociali come un problema, come qualcosa che in qualche modo ci intoppa, ci ostacola mentre noi operiamo, ci ostacola perché rallenta, ci vuole più tempo per farli sistemare, ci ostacola perché non riusciamo a metterli dentro uno stabile. Ecco, in realtà dovremmo capovolgere la prospettiva, cioè non solo quindi mettere al centro le relazioni come oggetto di studio per noi di attenzione, oltre alle caratteristiche degli individui, ma a usare le relazioni come una risorsa. Però per poterlo fare dobbiamo capire come sono fatte, perché l'idea di poterci arrivare con uno sguardo, francamente, secondo me può capitare che qualcuno ce la faccia, ma è molto lontana dalla... mi ricordo uno strumento di questo tipo creato per una scuola elementare in provincia di Modena, abbiamo formato delle maestre a utilizzarlo, questi adesso lo usano sempre per fare l'analisi del clima relazionale dentro questa scuola primaria, usano uno strumento, una maestra ha una funzione, lo applica, ricostruisce il network e dice, beh, questa classe ha questo problema, questa difficoltà, ci sono delle aree di segregazione all'interno, perché poi sono fenomeni che incidono sul rendimento scolastico di queste persone. Okay? Allora, che cos'è una struttura sociale? È una trama di rapporti di interdipendenza relativamente stabili che sussistono tra uno specifico insieme di, e qui abbiamo diverse cose, ruoli, posizioni sociali, istituzioni, classi, gruppi, eccetera, a prescindere dall'identità dei componenti che si avvicendano come soggetti dei rapporti. Questa è la definizione di Gallino, di Luciano Gallino, di struttura sociale. Allora, che cosa dobbiamo in qualche modo, tra gli altri aspetti interessanti, ritenere in modo particolare di questa definizione? La struttura sociale si compone, è vero, di individui, ma a noi interessa nella misura in cui essa ha delle caratteristiche non direttamente collegate agli individui. Cioè, se noi sappiamo che una rete densa funziona meglio per fornire sostegno immediato, noi dobbiamo provare a creare quel tipo di situazione, a prescindere dalla specificità degli individui che la costituiscono. La struttura sociale all'interno della quale noi operiamo è una struttura sociale che, nella quale noi occupiamo delle posizioni, tanti status, ciascuno di noi ha una posizione nel lavoro, ha una posizione all'interno della famiglia, ha degli status diversi. Ora, che cosa qualifica, che cosa struttura queste nostre posizioni al di là di noi, che ci piaccia o meno? Le aspettative che hanno gli altri, il concetto di ruolo, il ruolo familiare, il ruolo lavorativo, eccetera, non esiste se non c'è la relazione con l'altro, se non c'è uno che ha un'aspettativa rispetto a quello che tu stai facendo in quel momento. Ok? Allora, se noi scopriamo che esistono dei ruoli, delle aspettative stabili all'interno del contesto sociale, allora abbiamo trovato una struttura sociale. E ci sono diversi modi per trovare queste, per identificare questi ruoli. Quello che noi impareremo a fare alla fine della parte metodologica sarà trovare i ruoli a partire dalle posizioni nella struttura sociale dei nodi, cioè dal modo in cui si collocano dentro la rete. Esatto. Dobbiamo trovare i ruoli. Che cosa fa di un nonno, il fatto che abbia generato, e il fatto che la prole che lui ha generato sono state generate. Cioè il ruolo di nonno è fondato su una struttura, sociale, diciamo che nasce sul legame della generatività, ma che è fatta così. Non sul fatto che i bambini abbiano bisogno di una figura che si chiama nonno, o che si rappresenti in qualche maniera il nonno. Quando noi cerchiamo il nonno, dobbiamo trovare questo per dire, sì, questo è effettivamente un nonno. Allora, ora l'esempio è banale, no? Però, se noi troviamo questi ruoli, allora colleghiamo le aspettative che hanno i soggetti nei confronti di questa figura alla posizione strutturale. Ok? L'ultima. Credo che voi dobbiate fare la pausa adesso, però come vi siete sistemati finora con la lezione? Allora adesso vi dico come è andata. Lo scorso venerdì noi eravamo talmente, no? Talmente presi che alle 7.35 è arrivato qualcuno, ha fatto signore, dobbiamo chiudere la struttura. Ora è chiaro che ci strutturiamo un po' meglio, quindi non so se possiamo fare una pausa di un quarto d'ora adesso, 10 minuti, va bene così? Ok, allora se ce la fate io vi direi queste ultime cose, poi ci fermiamo per darvi una panoramica. Non vi consiglio di scriverla perché lo trovate questo elenco a pagina 67, ma era soltanto uno per chiudere questa fase di overview sul concetto di struttura sociale, e poi noi però impareremo a misurare un tipo di struttura sociale, dobbiamo arrivare a cogliare, no? E avere gli strumenti pratici, e qui abbiamo, e appunto a pagina 67, l'elenco di queste accezioni che riporta Franco Crespi, sociologo italiano, è struttura come elementi immutabili che presiedono a tutte le dimensioni dell'universo, sono le essenze platoniche. Voi che tipo di formazione avete, se posso chiedere, a livello di laurea? Ecco. Mi viene da ridere. Come lo viene da ridere? No, perché dentro c'è tutto. Qua dentro c'è qui dentro catrone, ah sì, certo, sì. C'è sì. Tanto, ma noi guardiamo questo. Per studiato in ontologia. Visto? Ecco. Per dire che di struttura sociale parlano diversi autori in diverse maniere, no? Questo è come dire, è un'assunzione di responsabilità, ma soprattutto direi di serietà. Noi poi la vedremo solo in una di queste specifiche maniere. Ecco, ma che tipo di formazione avete? Lei che formazione ha? Io ho fatto arabo, diritto musulmano e diritto islamico, la parte di teologia islamistica, sì? Filosofia morale. Ok, sì, poi c'era la parte di lingua. Era un po' un mix tra scienze politiche. Tipo lingua e civiltà orientale. Sì, però era abbastanza intrinseca però cosa. Molto particolare. Sto facendo una ricerca nell'OSI di Pucara con un'equipe dell'USA sul network tra il X e il XII secolo delle città di quest'opera. Ed è il Dipartimento di Arte dell'Islam del Louvre, poi magari le faccio vedere una cosa, visto che è dell'ambito. E invece voi, se posso chiedere? Io ho una laurea stranissima. Ecco, anche quella lo scherzavo. La mia è un po' diversa, ecco. Io guardo la parte tecnica, ipertecnica, la parte... Che laurea hai? Io ho una laurea in protezione civile. Laurea in protezione civile. E lavoro in protezione civile e okay. Ho un master di diritto dell'ambiente e del territorio. Ok, ok, quindi diciamo molto tecnica. Lei, signora? Io comunque sono un diploma di assistente sociale, una laurea in scienze politiche, diritto economico, master in business. All'Università di Bologna, politico economico? A Padova. Ah, a Padova, ok. E master in business intelligence. Ah, siete molto diversificati comunque. Lei accrescerà ulteriormente la diversificazione. Beh, io ho una laurea in scienze giuridiche. Ah, ok. E il diploma invece era... Istituto Tecnico Industriale, quindi sono un tecnico, però è votato alle scienze giuridiche. Alle scienze giuridiche è l'unico più, insomma, lei un po' lingua e civiltà orientali, grosso modo, da questa parte si chiamava così. Era storia civiltà orientale. Storia che quale terminò? Arabo e persiano. Ah. E poi comunque ho mantenuto, perché io so tedesco, spagnolo, inglese, e le ho volute mantenere perché comunque le sapevo bene. Possibilità di stare tanto all'estero, sì. Poi ho fatto diritto dei paesi islamici, diritto islamico, tutta la parte di islamistica perché comunque era abbastanza importante, tutta la parte di filosofia morale, teologia. Ma in quale ateneo? Perché? Bologna. Ah, Bologna. A Bologna. E ho fatto anche un esame di storia dell'arte islamica, era un complementare. Io ho un diploma in elettricità, quindi sono il più diverso, e poi la laurea breve triennale in scienze giuridiche dell'amministrazione. In scienze giuridiche, sì. Però di cioè ho fatto solo filosofia del diritto, sociologia non ho mai fatto. No, ecco, allora questo un esame di sociologia dei processi del lavoro. Ha fatto sociologia del lavoro? Con Orioles. Con? Orioles. Sì, l'ho sentito ancora, sì. Io vado sociologia generale, sociologia dell'ambiente e del territorio e su sociologia dei rischi. Dove l'ha fatto sociologia lei? A Perugia. Ah, Perugia. Io studiavo era di Perugia, la facoltà. Ok. Bene, allora, pur di fronte allo stupore della vostra collega, io adesso presento rapidamente questo, poi ci riposiamo un quarto d'ora. Effettivamente sì, qui c'è un'enorme eterogeneità, ma noi non vedremo tutto questo, d'accordo? Quindi da Platone alle leggi interne ai processi evolutivi della natura, verificabili empiricamente, il positivismo, che è l'ambito nel quale nasce la sociologia come disciplina, di tutte le, diciamo, le scienze che voi avete evocato, la sociologia è probabilmente la più giovane e in campo, le categorie trascendentali a priori che presiedono le nostre operazioni conoscitive, quindi Kant e poi il mercantismo, poi le strutture permanenti inconsce, quindi Levi-Strauss, e i prodotti causali dei mutamenti della storia che si costituiscono in forme rappresentative e conoscitive, Foucault, le costruzioni del soggetto nel suo rapporto operativo con la realtà esterna, che piace, è molto interessante da questo punto di vista. Ecco, lei che ha anche fatto un percorso nell'ambito dell'assistenza sociale, del servizio sociale, perché Piaget fonda il processo di socializzazione del bambino, questo è molto interessante, come adeguamento delle strutture cognitive, nella relazione tra le strutture cognitive interne del bambino e le strutture relazionali esterne. Ed è molto interessante perché, a mio modo di vedere, leggendo Piaget si capisce in che modo la struttura sociale entra dentro l'individuo nel processo. Però è proprio pedagogia. Sì, Piaget è stato un grande pedagogista, esatto. Però un oggetto di attenzione specifico per la sociologia è la socializzazione, non la socializzazione nel senso pigliamoci un caffè assieme, non la socialità, ma la produzione di un individuo che è un individuo che sta nella società, che gioca dei ruoli sociali. Come avviene questo miracolo? D'accordo? Per cui un individuo a un certo momento diventa capace di giocare dei ruoli all'interno della società, cioè diventa un pezzo della struttura sociale. E questo non ha a che fare in senso stretto con col trasferimento di competenze, con la coltivazione, né con l'educazione, ma è la socializzazione. Noi ci alleniamo a pensare a tutti gli aspetti di socializzazione, di persuasione occulta che esistono negli istituti scolastici. Per esempio, mettersi in fila per aspettare, che cos'è se non una preparazione a tutte le file che poi ci dovremmo sorbire nel corso della nostra esistenza. A scuola noi impariamo a manifestare solo un aspetto della nostra personalità, quello che serve e che è richiesto in quel momento, ed è una differenza fondamentale rispetto alle relazioni familiari, dove invece l'individuo emerge in tutta la sua personalità ed è considerato in maniera particolare per tutto quello che è dai genitori. No? Allora, la socializzazione è proprio questo fenomeno. Allora, con Piaget si capisce in che modo la scuola e le altre istituti, diciamo, che noi incontriamo in senso di socializzazione, faccia in modo che la società entri dentro l'individuo. E c'è uno psicologo, psicometrista, che si chiama Jacques Lautré, che alcuni anni fa ha svolto un'indagine, trovate, no, purtroppo non è tradotto in italiano ed è scritta nell'unica lingua che lei non ha studiato, che è il francese, se non ho capito male, si chiama Classe sociale, milieu familial e intelligence, e questa indagine spiega qual è il meccanismo che collega la professione del padre, quindi la posizione nella stratificazione sociale della famiglia, al rendimento scolastico del figlio. Sapete che buona parte del rendimento scolastico è spiegata dallo status socio-economico della famiglia di origine dell'individuo. Per quanto la scuola entri in questo nesso, una parte del rendimento è spiegabile a partire dalle differenze che ci sono nella stratificazione sociale, che naturalmente dota di diverse quantità e qualità di capitale culturale, economico, di individuo. lo scopo della scuola moderna è quello di, che è uno scopo della modernità, è quello di produrre eguaglianza, di diminuire queste differenze di origine che comunque ci sono tra gli individui. Allora, questo psicologo, in modo particolare, utilizzando l'approccio di Piaget, oltre a trovare questa relazione statistica, spiega anche perché, che cosa succede dal punto di vista cognitivo, perché un certo tipo di professione si associa a un rendimento scolastico più alto dei soggetti. Molto interessante, i sociologi si occupano di questo, si occupano di capire come quello che noi non vediamo e che pure esiste, che sono le relazioni sociali, determinano quello che noi facciamo. Problematizzare l'ovvio. Né più né meno. Ecco, dopo questa frase, ecco poi Chomsky alla fine, schema fisso innato, che costituisce la base comune delle lingue, presenta le loro trasformazioni. Bene, dopo questa, avete qualche domanda? Direi che ci possiamo fermare allora qualche minuto. Bene? Se ti do la chiavetta, hai le